spiegare. Hai provato su eBay, nelle pagine bianche, sui blog dentro schisti, nelle case di relax. Con questo sottofondo meraviglioso di Colapesce, appunto, Quando tutto diventò blu, e questa canzone non è scelta a caso. Perché, cara Lucrezia? Non è scelta a caso perché Quando tutto diventò blu, per l'appunto, è la graphic novel cult di Alessandro Baronciani, che diventa un concerto a fumetti con Sanner, il Project Festival targato Arce Emilia Romagna. Lo spettacolo inedito con disegni e musica live è stato creato da Alessandro Baronciani insieme a Corrado Nuccini dei Giardini di Miro, e vedrà sul palco anche Daniele Rossi al violoncello e avrà come voci Ilaria Formisano e Erskine. Ad ogni data ci saranno ospiti tra i nomi più importanti dell'indie al femminile, che interpreteranno pezzi originali scritti per il concerto disegnato e altri pezzi del loro repertorio. Ne parliamo oggi soprattutto perché questa sera partirà dalla Sala Estense di Ferrara, dove ci sarà sul palco Maria Antonietta, che insomma è stata anche ospita a Sanremo. Quindi sì. Arriva, torna sul palco, e quindi è un piacere avere qui in onda i nostri microfoni Alessandro, benvenuto. Benvenuto, anche se devo dire malincuore che la data di Ferrara è stata posticipata al 25 febbraio. Oh. Meglio così, così almeno lo sappiamo tutti, lo sappiamo anche meglio perché così è alla radio. Però purtroppo ci sono stati un po' di contrattempi sulla sala, e quindi ci hanno spostato, però è meglio perché comunque è martedì grasso e quindi si fa festa comunque. Ecco, e quindi aspetteremo Maria Antonietta. Aspettiamo Maria Antonietta, che tra l'altro anche lei è tornata da Sanremo che non stava, con un po' di febbre, quindi tutta questa cosa qua è andata a buon fine quando ci hanno detto tutta una serie di casini che erano successi uno dietro l'altro, per cui la prima data rimane comunque a Cavriago. Ok, sì, è il 16. Domenica. Sì. Il 16 invece a Bologna, ricordami quando saremo a Bologna. Al 15 marzo al Mercato Sonato, esatto, con Giungla, quindi, Francesca Bono, che abbiamo intervistato. Un mese esatto, ci sarà a Bologna e poi ci saranno anche altri ospiti a sorpresa. E ah, sono curiosa. Sono tutte delle chicche, perché quando ho cominciato a raccontare il progetto a Corrado e abbiamo capito che forse un autore, un cantante, sarebbe stato bello coinvolgerne di più, e poi a un certo punto abbiamo deciso di coinvolgere soltanto autrici femminili, alla faccia di Giovannotti. Abbiamo cercato, è stato difficilissimo perché ovviamente non è che inviti delle persone a suonare in un concerto, inviti delle persone a suonare mentre io disegno, certo, e racconto la storia del libro, quindi un po' di persone non hanno proprio capito niente, un po' di persone non hanno voluto partecipare, e invece tutte quelle che vedi sul palco sono tutte le persone che sono rimaste entusiaste del progetto. Mi piaceva che si parlasse anche di un tema un po' difficile, tra l'altro è anche stato molto divertente pensare di fare uno spettacolo praticamente sugli attacchi di panico. Ecco, infatti, ma come è nata l'idea di questo concerto a fumetti? L'idea è nata